La storia e la memoria. La sera del 9 ottobre del 1963 alle 22:39, dalle pendici del Monte Toc, 300 milioni di metri cubi di roccia precipitano alla velocità di 80 km all'ora nel bacino artificiale della diga del Vajont, all'epoca la più alta d'Europa. La frana solleva un'immensa onda d'acqua e detriti che si abbattono sui paesi di Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faerto, Casso e sulle frazioni di San Martino, Pineda, Spesse, Patata, Cristo. Il bilancio delle vittime è impressionante. Oltre 2000 persone. Sono passati 50 anni da quella immane tragedia. La forza d'urto della massa franata creò due ondate. La prima, a monte, fu spinta ad est verso il centro della vallata del Vajont, che in quel punto si allarga. Questo consentì all'onda di abbassare il suo livello e di risparmiare per pochi metri l'abitato di Erto, ma spazzò via le frazioni più basse lungo le rive del lago. Frassegne, Le Spesse, Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana e San Martino. La seconda ondata si riversò verso valle superando lo sbarramento artificiale, innalzandosi sopra di esso fino ad investire, ma senza grosse conseguenze, le case più basse del paese di Casso. Il collegamento viario eseguito sul coronamento della diga venne divelto, così come la palazzina di cemento a due piani della centrale di controllo e il cantiere degli operai. L'ondata, forte di più di 50 milioni di metri cubi, scavalcò la diga, precipitando a piombo nella vallata sottostante con una velocità impressionante. La stretta gola del Vajont la compresse ulteriormente, facendole acquisire maggiore energia. Allo sbuco della valle l'onda era alta 70 metri, troppo tardi per mettersi in salvo. A Longarone quella sera di certo nessuno si aspettava che la tragedia stesse per compiersi. Maria Pia Bassetto lavorava presso l'ufficio postale di Longarone e rievoca così quei terribili istanti. Ci sono state le persone informate, ma non di sicuro tutti, perché la sera del disastro c'era una partita di calcio alla televisione, il bar era pieno, tutti erano tranquilli, si fa per dire. La telefonista quel giorno però, che abbiamo parlato insieme, mi diceva che la strada che dalla diga scendeva a Longarone c'erano tutti gli animali che scappavano lungo e non se lo spiegava. E poi c'erano gli uccellini in gabbia che mordevano, ossia gli animali sì avevano capito che c'era qualcosa che non andava. Case, chiese, porticati, alberghi, osterie, monumenti, statue, piazze e strade furono sommerse dall'acqua che le sradicò fino alle fondamenta. Della stazione ferroviaria non rimasero che lunghi tratti di binari piegati come fuscelli. Quando l'onda perse il suo slancio andandosi ad infrangere contro la montagna, iniziò un lento riflusso verso valle. Un'azione non meno distruttiva che scavò in senso opposto alla direzione di spinta. Altre frazioni del circondario furono distrutte totalmente o parzialmente. Rivalta, Pirago, Faè e Villanova nel comune di Longarone, Codissago nel comune di Castellavazzo. A Pirago restò miracolosamente in piedi solo il campanile della chiesa. La villa Malcolm venne spazzata via con le sue segherie. Il Piave, diventato un'enorme massa d'acqua silenziosa, tornò al suo flusso normale solo dopo una decina di ore. Abbiamo in linea Micaela Coletti, che è presidente del Comitato Sopravvissuti del Vajont. Buonasera, signora, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a lei che mi ha chiamato. Le chiederei prima di tutto di rievocare per i nostri ascoltatori quel che avvenne in quei terribili momenti. Lo ricordo, lei all'epoca dei fatti aveva 12 anni. Allora è sempre... È sempre difficile. Difficoltoso, sì, molto difficoltoso ricordare, anche perché non è un semplice ricordo, uno comunque lo rivive ogni volta. Comunque era una giornata come tante altre, nel senso che insomma noi andavamo a scuola in quel momento e c'era in realtà a Longarone un'aria strana, perché c'erano sempre, soprattutto le persone anziane, che dicevano, rivolti alla diga, quella sarà la nostra morte. Però per noi che eravamo bambini erano discorsi anche abbastanza, non dico assurdi, ma che non prendevamo più di tanto in considerazione. Non c'erano stati allarmi particolari? Ma sì, il vociare del paese c'era, tutti che guardavano in maniera preoccupata questa M illuminata anche di notte, si sentivano delle scosse telluriche che non era proprio usuale a Longarone sentirle. Però, ripeto, per noi era una cosa così che poteva capitare, non avevamo sicuramente la percezione di quello che stava per accadere. E quella sera io ero a letto e a un certo momento mi sono svegliata perché aspettavo mio papà che ritornava a casa dal lavoro e ho sentito che poi se ne andava via ed era una cosa molto strana, anche perché erano arrivate delle persone, c'era questo vociare piuttosto concitato. E la cosa appunto strana era che poi mio papà è risalito in macchina e è andato via. Sì. Non erano passati nemmeno 3 minuti che ho sentito un tuono e questo è stato un momentino così sorpreso, perché era un tuono molto forte come i classici temporali estivi. Sì. In quel momento mia nonna è entrata in camera dicendo aspetta che chiudo le imposte che sta arrivando il temporale. In quel momento si è spenta la luce, io ho sentito il letto dove ero che si piegava in due, una forza terrificante che mi stava portando non so dove e soprattutto la sensazione di non aver più il volto, di avere il volto fatto di plastica in pratica che si allargava e si restringeva e il fatto di non aver più gli occhi. Probabilmente il mio bisogno proprio di toccare per sentire che cosa stava succedendo mi ha permesso di fare una bolla d'aria, perché ho fatto più di 350 metri di volo in linea d'aria ed ero sepolta sotto terra, avevo fuori un piede e una mano. E poi sono venuti i soccorritori e l'hanno tirata fuori? Sì, poi nelle ore dopo, verso le 3:30-4 del mattino, questo a meno un quarto alle 11. Verso le 3:30-4 del mattino hanno visto probabilmente la mano che ogni tanto si muoveva perché cercavo aria e mi hanno tirato fuori, ho sentito proprio il rumore, no? Come quando, presumo, come quando si nasce questo poco, come quando si stappa una bottiglia. E qualcuno ha detto abbiamo trovato un'altra donna, un'altra vecchia, e io in qualche maniera mi sono così arrabbiata, diciamo, no? Certo, certo. Poi ho ricordo di essere stata sulle spalle dell'unico vigile del fuoco che era rimasto, Aldo De Col, che è morto 3 anni fa. Io gli avevo detto fammi camminare, perché lui continuava a cadere su questi sassi bianchissimi, traslucidi. Alzo la testa e vedo una luna che è enorme e mi aveva fatto paura, perché ho detto io quasi quasi mi verrebbe voglia di toccarla, però sicuramente se la tocco mi cade in testa. E poi mi ricordo l'ultimo sprazzo di ricordi che ho di quella notte, quando mi hanno caricato in una macchina sentivo qualcuno che urlava ed ero io, però non avevo la percezione di essere io, era come uno sdoppiamento di personalità in realtà. E i suoi familiari, signora Micaela? Sì, ho perso il papà che aveva 43 anni ed è l'unico che è stato ritrovato, riconosciuto perché aveva i documenti, non perché fisicamente fosse riconoscibile. Mia mamma che aveva compiuto 40 anni da 4 giorni, una sorella di 14 e mia nonna che era la mamma del mio papà. È una tragedia immane, sì, proprio. Sì, ma anche perché non sono morti soltanto i tuoi parenti, ma tutti coloro che facevano parte della mia vita di allora, tutti coloro che gravitavano attorno a me, ai miei genitori. Per cui non è soltanto la perdita dei propri cari, quelli vicini, ma è proprio la perdita di una vita intera. E adesso, a distanza di così tanti anni, qualche elemento in più comincia ad emergere, ad esempio la parte relativa alla responsabilità dei geologi. Sì, certo, anche perché c'è stato la figlia del notaio Chiarelli, che era il più grande notaio che era a Belluno a quel tempo, che ha pubblicato la documentazione, la lettera che aveva suo padre, la deposizione che ha fatto al processo e che poi è stata stralciata perché non è stata neanche presa in considerazione. E lui aveva detto appunto che due persone che lavoravano in diga avevano detto che sarebbe, che quel mercoledì 9 avrebbero fatto saltare la frana. che lo facevano proprio quel mercoledì, perché era la partita, per cui tutti sarebbero stati davanti alla televisione e non avrebbero fatto caso né a scosse telluriche né a rumori che comunque avrebbero rappresentato un pericolo, e soprattutto di notte, perché nessuno avrebbe visto niente, nessuno avrebbe fatto domande. Ed è quello che noi da 12 anni, da quando abbiamo costituito il comitato, andiamo dicendo, insomma, e questa per noi è una grande, tra mille virgolette, soddisfazione, sì. Perché insomma parlare per tanti anni ed essere smentiti continuamente, ed essere giudicati matti piuttosto che in cerca di chissà cosa, e dopo c'è qualcuno che ripete quello che abbiamo detto noi, insomma, anche perché ancora non sono resi pubblici questi documenti. Certo. Allora, se è stato concluso in maniera definitiva tutto l'iter processuale, perché non rendere pubblici tutti i documenti, non soltanto quelli che fanno piacere all'Enel piuttosto che a qualcun altro? Devono essere pubblici, come devono essere pubbliche le foto dei cadaveri ritrovati. Mm-hmm. Perché è giusto che la gente abbia da capire, da vedere che cosa vuol dire morire nel Vajont, perché poi quando si parla di morte, che non fa piacere a nessuno parlare di questo, meno che meno vedere un cadavere, però soltanto guardando quei volti deformati si riesce a capire davvero che cosa è successo quella notte. Noi la ringraziamo moltissimo e buona serata, sì. Signora. Grazie a voi.